impressionismo, eh? 1874-2024, 150 anni di questa corrente artistica. Beh, è un bel regalo quello che porta Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo. Pensate che questo termine arriva in maniera critica da ovviamente chi ha dato troppo frettolosamente, un critico d'arte, e dice: davanti all'opera Impressione al Levar del Sole nel 1872 di Claude Monet, questo critico Louis Leroy dice: ma questo non mi sembra neanche un lavoro finito, questo è giusto un'impressione, quindi in maniera anche non proprio un complimento, ecco. Mentre invece è stato indubbiamente un movimento fondatore per quello che sarà da lì in avanti, un percorso artistico dove diversi maestri, abbiamo citato Claude Monet, ma o Auguste Renoir, protagonista con il lavoro che arriva a Magnani Rocca, ne parleremo con Stefano Roffi. Stiamo parlando di un autore che con quest'opera, nel suo primo percorso di carriera, che è la Promenade, la passeggiata, è realizzato nel 1870, quindi siamo negli albori. Saranno interessanti diversi motivi di dialogo che troveremo nella Villa dei Capolavori, perché Villa dei Capolavori è ed è in provincia di Parma, così evitiamo, siete con che R parmense che lo dico, in provincia di Parma. Anche in questo caso è Miles Davis che porta questo brano. Abbiamo parlato di passeggiate, questo è un altro tipo di passeggiata, è uno dei lavori del periodo hard bop del grande Miles Davis dal titolo Walking. Renoir viene da famiglia molto povera, sono operai nel tessile i genitori di Renoir, a dispetto del nonno François che diceva: no, noi siamo di una famiglia nobile. Beh, veramente lui era senza famiglia, sfortunato, e ben presto decide di trasferirsi da Limoges a Parigi. Nonostante il nonno millantasse queste nobili origini, no, non è esattamente così. Anzi, lavoratrice la madre, in ambito tessile mi pare sarto il padre. Beh, il giovanissimo Auguste, che era il quarto di cinque fratelli, inizia a dipingere. Avete presente che sicuramente avete giocato anche voi con questi gessetti per disegnare sulla tela? Ecco, lui da bambino inizia così e i genitori dicono: ma questo è un fenomeno. Passeggiata, adesso la porterà ai nostri microfoni Stefano Roffi, eh? Ed è un capolavoro assoluto dove veramente ci sono i fondamenti dell'impressionismo, ed è un anche oltretutto per la Villa dei Capolavori un grande motivo di collaborazione. Ricordo che è per la prima volta in Italia. È una bellissima collaborazione col Getty Museum di Los Angeles, che possiede capolavori strepitosi di ogni tempo, e per alcuni mesi, fino al 15 dicembre, ci presta un'opera veramente somma di uno dei grandi dell'impressionismo. Parliamo di Renoir. La Promenade è un'opera del giovane Renoir, dipinta nel 1870, è una delle prime opere impressioniste in assoluto, quindi apre la strada alle ricerche di questo movimento che ha veramente rivoluzionato l'arte della fine dell'Ottocento in poi. Da un giorno, ecco, questo dipinto è esposto in una sala della Fondazione, in cui pubblico lo sta ammirando moltissimo, devo dire che va letteralmente in estasi, perché di fronte al capolavoro si ha sempre così una sensazione quasi di sacro, di trascendenza. È esposto accanto a due opere di Renoir collezionate da Luigi Magnani. Ma che caratteristiche ha per essere così importante? Renoir, proprio un rivoluzionario, abbandona completamente la pittura accademica, la pittura di atelier, di studio, quella che prevedeva il soggetto in posa, magari con un fondale finto. Lui così butta alle ortiche tutto questo e dipinge all'aperto, en plein air. La rivoluzione è quella della luce sostanzialmente, le figure sono costruite con macchie di colore e di luce che sovrapponendosi creano la profondità, è una novità proprio assoluta, considerando che siamo nel 1870, quindi è un'opera che è proprio all'inizio sì. dell'impressionismo e è molto interessante nella sala dove questo dipinto è esposto fare il confronto con le opere di Renoir anziano che fanno parte della collezione permanente della fondazione. Luigi Magnani aveva acquistato due dipinti dei primi del Novecento, quando l'artista peraltro soffriva di artrite, ecco, era molto in difficoltà a dipingere, però pervicacemente continuava la sua attività e il pubblico adesso ha la possibilità di fare questo confronto fra la pittura sontuosa, scintillante, luminosa del Renoir giovane e quella forse più sofferta, un filo espressionista del Renoir molto maturo. Che sarà fino al? Fino al 15 dicembre. Bene, e allora l'appuntamento diventa anche con un motivo ulteriore per visitare la sede espositiva Villa dei Capolavori. Io ti ringrazio tantissimo e poi ci vediamo presto. Buona giornata. Grazie a te, William. A presto. Lui è un impressionista in musica, assolutamente. Si tratta di Michel Portal. Dalla batteria, disco bellissimo dal titolo Minneapolis. Comunque, tornando alla passeggiata, realizzato nel 1870, ufficialmente l'impressionismo, la data 1874, quindi 150 anni, e arriva a Mamiano di Traversetolo questo capolavoro. Arriva da Los Angeles, dal Getty Museum e, beh, oltre che gli aspetti, chiamiamoli di emozione impressionista, con il colore, la luce, lo splendore che già ha spiegato Stefano Roffi, direttore della sede espositiva, vi parlo del tema che è costituito da una coppia che in maniera molto romantica sta passeggiando, forse lungo la Senna, e nel mezzo di una vegetazione molto folta il giovanotto tende la mano in maniera molto dolce alla donna per aiutarla, perché lungo il sentiero ha incontrato un ostacolo. È vestito in maniera molto elegante, entrambi, porta un cappello a tesa corta, lei elegantissima, e il gesto per aiutarla a passare questo ostacolo tra la vegetazione foltissima in una delle rive, immaginiamo sia la Senna, uno dei capolavori impressionisti assoluti. Interessante anche quando andate a Magnani Rocca, se già non siete stati, io vi obbligo ad andare, vi troverete completamente circondati nell'esposizione permanente, non so, vi trovate Degas, vi trovate Signac, vi trovate i più grandi artisti. Luigi Magnani indubbiamente un intellettuale per quanto riguarda diversi aspetti, anche la letteratura, anche la musica, ovviamente in questo caso l'arte, ed ha corredato di immense meraviglie. Ma dicevo, è molto interessante la parte di confronto tra i periodi del giovane Renoir con la parte di conclusione della sua carriera. Sarà fino al 15 dicembre e quindi avremo modo di portarla poi anche con un'altra esposizione che sarà protagonista non la prossima settimana ma quella successiva, in quanto non domani ma il venerdì prossimo alla Fondazione Magnani Rocca ci sarà protagonista il surrealismo. Quindi parliamo di altre correnti artistiche, come ben sapete in mostra rompe ogni steccato, in questo caso una piccola anticipazione per questo capolavoro che, come ribadisco, sarà fino al 15 dicembre alla Fondazione Mamiano di Traversetolo, la Magnani Rocca. Grazie a Stefano Roffi, che risentiremo a breve. Grazie Sabina, buongiorno a te. Scrive al 333-180-9494. William, la selezione musicale di oggi è stratosferica. Grazie. E visto che nel tema di Renoir troviamo una vegetazione lussureggiante, questo è Robert Wyatt con The Forest. Baby blue. Aggiungo anche che a Magnani Rock trovate un'ampia parte dedicata a Giorgio Morandi, molto bella, nella ovviamente esposizione permanente. ...1870, quindi un'opera tra le prime di Auguste Renoir, e poi trovarla al fianco a un suo percorso in età più matura. Ecco, 15 dicembre, però, in questa seconda parte dell'anno espositivo 2024 troviamo poi, e non ne parleremo questo venerdì, ma la presentazione in conferenza stampa sarà il prossimo, quindi uno speciale sul surrealismo. E parleremo anche di un passaggio del testimone, questo è un altro motivo importante da sottolineare, come mi ha suggerito Alfredo Pasquali con il Louvre di Parigi. Ci ritroveremo con Alfredo alle 9.30 per la rassegna stampa di oggi, giovedì 5 settembre, prima Liberi Dentro, però vi ricordo che domani, puntuali alle ore 7, prima vigilia di weekend stagione 2024-2025, abbiamo il consueto rotocalco dedicato al teatro in scena. Ci sarà in diretta con noi Sergio Fanti, il mio fratellone di ritorno dalla Polinesia Veneta, col quale ho passato un paio di giorni, per cui insomma anche domani avremo modo di dare approfondimento culturale alzando il sipario per chiudere la settimana aspettando il weekend, questo primo weekend di settembre. E io con un caloroso abbraccio mi congedo a voi augurandovi un buon ascolto, una buona giornata sulle frequenze dei 103.1 dal vostro William Piana. A domani, ore 7 puntuali. Ciao a tutte, ciao a tutti.